Nerdcast episodio 7. Benvenuti finalmente al nuovo episodio, al primo episodio del 2010 di Nerdcast, Nerdcast episodio 7. Spero di non aver sputato proprio sul microfono, perché ho gridato proprio tantissimo quando ho detto Nerdcast episodio 7, ma vabbè, così è. Bene, ovviamente non sono tornato dopo due settimane dall'ultimo episodio, perché dico ovviamente perché è così, cioè dico una cosa e poi non la faccio, ma ci sono state implicazioni di vario tipo, ovviamente sempre gli stessi alieni che mi rapiscono, non mi fanno fare gli episodi, insomma varie complicazioni, ma alla fine ce l'ho fatta, alla fine Nerdcast episodio 7, lo dico per chi ancora non l'avesse capito, e dunque... Siccome comunque il tempo che ho trovato per fare questo episodio è minimo, è davvero poco, io direi di correre abbastanza e quindi diciamo faccio subito i saluti a varie persone, iniziando da chi mi ha lasciato il commento sull'ultimo episodio su nerdpodcast.blogspot.com, il blog del podcast. Adesso non ce l'ho davanti la pagina, perché ovviamente una delle tradizioni di questo podcast è non prepararsi le cose da dire prima. Quindi se non sbaglio i tre che hanno commentato sono stati in ordine Liartes di Sprocchiocast, che è ovviamente un grandissimo, grazie mille. Poi Nino, che invece ha un blog molto interessante. E poi Matt, mi pare Matt, non grazie, sì, Matt di Nowherecast. A parte che qualche giorno fa ho visto la mia prima diretta di Nowherecast sul loro sito, è stato molto interessante, è stato molto bello, quindi credo che lo rifarò anche le prossime volte. Mentre per quanto riguarda una diretta di Nerdcast bisognerà credo aspettare, non lo so, 2 anni, perché già il fatto di avviare un podcast e farlo funzionare è stato abbastanza faticoso, farlo da solo. Quindi mettere una telecamera, andare in diretta è un pochino più difficile. Comunque, siccome appunto come ho detto prima, io, non voi, però io ho abbastanza fretta, quindi manderei subito la prima canzone. Prima canzone si tratta di un gruppo turco, un rock simpatico, sono i Quanta e questa si chiama Sultana. Her yerde düşümde gülüşümde kazansaydım son seferde aynı şey olur muydu? Arkasına bakmadan kaçan nasıl ödersin ücretimi? Uzaktan uzağa yaklanan düşünceler. forse sentito bene prima, perché forse la canzone è partita troppo potente. Erano i Quanta con Saltanat, sempre da giamendo.com, va, così va bene per tutti quanti. A parte che di Giamendo devo dire una cosa dopo, verso la fine, ma siccome non ho tempo e mi imbroglierei un pochino, andiamo un attimo alle notizie per quanto riguarda il mondo dei videogames. Di cose da dire ne avrei una barca pienissima, però come ho detto prima sono abbastanza di fretta, quindi ne dico soltanto due o tre, poi le altre le lascio per i prossimi episodi. La più recente, quella che ha precedenza rispetto alle altre, è il Game of the Year. Cioè sapete che, credo che sappiate che siamo all'interno di un nuovo anno, quindi un altro anno si è chiuso, come insomma di solito accade dopo un anno. E di solito viene eletto quasi all'unanimità, non sempre, un gioco dell'anno dai siti, da tutti i siti di videogiochi, anche dalle riviste di videogiochi, anche se comunque al giorno d'oggi non esiste un premio ufficiale, no? Tipo i Grammy per la musica, per esempio, o gli Oscar per i film, per quanto riguarda i videogiochi, perché diciamo, a fare il gioco dell'anno sono più che altro le opinioni dei forum, le opinioni degli editori, dei giocatori e tutto quanto. Quindi io sono andato a vedere 10 dei siti più famosi. Non ho visto ancora le riviste, quindi non posso dirvi di Edge, di Famitsu e altro, ma i 10 siti, 10 tra i siti più famosi, perché non sono tutti, però tra i siti più famosi di videogiochi, hanno ovviamente eletto il loro gioco dell'anno. E comunque se frequentate uno di questi, comunque avrete già capito, anche se frequentate un forum avrete già capito qual è il gioco dell'anno all'unanimità. Però faccio una rapidissima carrellata di tutti e 10 i siti e il loro rispettivo gioco dell'anno. Quindi partendo da Eurogamer.net, il gioco dell'anno è senza dubbio Uncharted 2. Poi Destructoid mette come gioco dell'anno anche questo Uncharted 2. GamePro.com, GamePro.com non lo trovo. Ups, ho sbagliato, benissimo. Andiamo avanti. IGN, IGN.com mette anche questo Uncharted 2. OneUp mette, indovinate un po', anche questo Uncharted 2. Neogaf.com mette Uncharted 2. GameSpy in realtà non mette Uncharted 2, è incredibile, ma mette Modern Warfare 2, Call of Duty Modern Warfare 2. GameSpot invece Demon's Souls. Non ho capito proprio da dove esce questo Demon's Souls, ma GameSpot legge Demon's Souls. E infine Kotaku, più che altro non hai letto il sito, ma gli utenti. Comunque il gioco dell'anno è Uncharted 2. Quindi per quanto riguarda, diciamo, il ruolo, diciamo, il territorio estero di siti, il gioco è ovviamente all'unanimità è Uncharted 2, tranne che abbiamo visto GameSpy che vota Call of Duty Modern Warfare 2. E per quanto riguarda invece sull'italiano, multiplayer.it, che è l'unico sito italiano che ho preso, non se la sentano, insomma, non se la prendano più che altro gli altri siti, però è quello che seguo sempre, cioè multiplayer.it, e anche multiplayer.it legge Uncharted 2. Cioè, è ovvio che da quest'ultima classifica dei siti più importanti si deduce che generalmente Uncharted 2 il gioco dell'anno 2009. Uncharted 2 in realtà, per chi non lo sapesse, per quei pochi che non lo sanno, Uncharted 2 è un gioco esclusivo soltanto per PlayStation 3, proprio il brand di Uncharted è un'esclusiva PlayStation 3, Io, possedendo una PlayStation 3, l'ho acquistato sapendo, cioè, un bel po' di tempo dopo in realtà che uscisse. E a dire la verità, ho giocato un po' tutti i giochi che sono stati candidati a gioco dell'anno. Oltre a Uncharted 2, c'era anche, mi viene in mente, Batman Arkham Asylum. Alcuni hanno detto anche Dragon Age Origins, altri Borderlands, altri avevano proposto Bayonetta, nonostante comunque fosse uscito in Giappone prima di Natale e in Europa dopo Natale, quindi insomma era fuori il ballottaggio. In ogni caso, tra tutti questi giochi, anche Modern Warfare 2 in realtà, tra tutti questi giochi sono d'accordissimo io personalmente al 100% a decretare che Uncharted 2 sia in effetti il gioco dell'anno, perché diciamo, per coloro che non hanno una PS3, quindi non possono giocarci, è un'esperienza diversa nel mondo dei videogiochi, ma non perché porti qualcosa, cioè personalmente non reputo che porti qualcosa di così tanto innovativo, oltre alla grafica che è pazzesca, probabilmente la grafica migliore di un gioco, se lasciamo perdere i simulatori come per esempio Flight Simulator per PC. Ma giocando a Uncharted 2, almeno io ho provato, cioè mi sono divertito in una maniera diversa rispetto a quanto insomma ho fatto fino a quel momento, perché Uncharted in effetti porta il genere action, essendo appunto Uncharted un gioco action, porta il genere action dove dovrebbe essere, cioè io avevo trovato i giochi action fino a questo momento, prima di Uncharted, abbastanza tutti simili. Comunque l'esperienza di gioco era simile un po' da tutte le parti. Mentre Uncharted è talmente vario, anche longevo rispetto alla media dei giochi, che comunque si merita questo titolo, perché anche coloro che non amano questo genere action, comunque si possono sentire, sicuramente si sentiranno trasportati un po' dall'esperienza di gioco di Uncharted, e quindi è consigliatissimo a tutti. Invece mi ha sorpreso vedere che nessuno dei siti menzionava non proprio nessuno, però insomma la maggior parte dei siti non menziona Assassin's Creed 2, che invece è multipiattaforma. E io in realtà sotto Uncharted avrei messo Assassin's Creed, non proprio Dragon Age, neanche insomma Batman, ma Assassin's Creed, che è un gioco a tratti paragonabile anche all'esperienza di gioco di Uncharted. Però ha delle pecche pazzesche. Cioè, io mi ricordo appena iniziato Assassin's Creed 2, che per le prime 4-5 ore credevo, cioè non avevo proprio idea a cosa stessi giocando, perché insomma, chi l'ha giocato lo sa, lo capisce, lo può anche leggere, perché una pecca di Assassin's Creed 2 è proprio l'inizio. Le prime 4, 5, 6 ore di gioco sono abbastanza caotiche. È un po' difficile capire bene dove vuole portare la trama, cosa in realtà bisogna fare, qual è proprio lo scopo della trama. Poi pian piano si dirama tutto quanto e si capisce che comunque la trama di Assassin's Creed è molto, molto, molto bella, insomma, è anche paragonabile a quella di Uncharted. Forse, no, forse quella di Uncharted è un gradino un pochino più su. Però, insomma, come secondo gioco dell'anno avrei messo Assassin's Creed. E dunque, da questo 2009, reduce proprio vittoriosa e decretata PlayStation 3. E conseguentemente, appunto, il gioco dell'anno PlayStation 3 è Uncharted 2. E si prospetta che per l'anno prossimo, non soltanto PlayStation 3, ma un pochino anche Xbox e forse anche il Wii, se uscirà questo Zelda. Ma sembra di no, sembra che Zelda sia rinviato al 2011. E sembra appunto che queste che le tre console più che del PC si stiano, cioè in questo 2010 porteranno cose sicuramente nuove. Insomma, si è visto con Bayonetta, che anche questo è un gioco multipiattaforma. Bayonetta è un gioco action che già era uscito, mi pare, in Giappone prima di Natale, è uscito a gennaio nel resto del mondo, ed è pazzesco, insomma, è molto interessante, ecco. È già un gioco che se fosse uscito nel 2009 avrebbe potuto cacciare Uncharted 2 dalla sua posizione di gioco dell'anno, quindi è pazzesco. Soltanto che questa volta gli utenti Xbox capitano meglio, perché il gioco è apparentemente migliore appunto su Xbox, e tanto che Famitsu, che come ho detto mi pare nella seconda puntata di Nerdcast, Famitsu è una delle, è forse la rivista più famosa in Giappone, è una delle riviste videoludiche più famose del mondo, e dà un voto ad ogni gioco da mi pare 4 a 40, 40 è il massimo, e la recensione di Bayonetta per Xbox 360 da Famitsu è stata decretata, cioè è stata valutata 40 su 40, dunque il voto massimo, mentre lo stesso gioco, cioè Bayonetta, su PS3 è stata valutata 38 su 40, cioè due voti in meno. Questo perché, insomma, c'è stata una conversione del gioco fatta male. Comunque, generalmente non dovrebbero esserci problemi a giocare Bayonetta anche su PS3. Però in questo caso Xbox arrivano meglio. Poi per quanto riguarda poi le prossime uscite, ce ne sono davvero tantissime, oltre a Dante's Inferno e poi God of War a marzo. Insomma, ce ne sono davvero molte. E mentre accantonando un po' questo discorso del gioco dell'anno, che è proseguito anche abbastanza velocemente, vorrei parlarvi di una cosa, di una dichiarazione molto strana. Molto strana, fatta da un presidente di una nazione, in questo caso del Venezuela. Il presidente in questione è Hugo Chavez, il quale personalmente mi piace pure abbastanza, però dalle cose che ha detto qualche giorno fa, ci riferiamo quasi ad una settimana fa anzi, e che mi hanno lasciato un pochino pensoso, perché ovviamente sono dichiarazioni che non approvo. Però, insomma, questo diciamo dispone il profilo di un leader politico che ce l'ha a morte con i suoi avversari, in questo caso gli Stati Uniti, il capitalismo, insomma, non facciamoci una discussione. Però praticamente la dichiarazione di Chavez è stata questa, la leggo. Questi giochi che chiamano PlayStation sono veleno. Alcuni giochi ti insegnano ad uccidere, mettono la mia faccia in un gioco e dicono che dovete andare a uccidere Chavez. Il che è un pochino strano, perché in effetti un gioco nel business attuale dei videogiochi, un gioco che pone come obiettivo principale quello di andare a uccidere Chavez ancora non esiste. No, però non sarcasticamente, in effetti un minimo di ragione c'è, cioè è sempre la solita critica annosa che viene mossa ai videogiochi, cioè il fatto che siano violenti, diseducativi e tutto quanto. È ovvio che contro questo non si può andare, perché in effetti è vero, però si tende sempre a fare diciamo potenziare proprio i difetti della console in questione. In questo caso lui parla di PlayStation come se ci fosse soltanto la PlayStation in giro come console videoludica, non menziona Xbox, non menziona Wii, e quindi è un po' strano. Io leggevo su un forum, che adesso ovviamente data la mia grandissima attenzione non ricordo. Leggevo che in effetti, se vi ricordate, qualche tempo fa, ne ho parlato anche in una puntata di Nerdcast, Obama diceva più o meno la stessa cosa. In realtà Obama e Chavez sono nemici quasi agguerriti, per chi segue un po' la questione là nell'America. E praticamente che cosa diceva Obama? Parlava sempre di videogiochi, diceva di alzarsi, di fare qualcosa per la nazione e non rimanere seduti a giocare all'Xbox. Lui ha usato l'Xbox per riferirsi, insomma, ai videogiochi in generale. Mentre adesso Chavez ribadisce più o meno la stessa cosa, utilizzando però la PlayStation. Quindi c'è chi si è sbizzarrito, c'è chi ha fatto delle discussioni sui forum parlando un po' anche della politica preferita da una console che da un'altra, cose stupide, insomma, inutili, infondate, perché ovviamente una console non si basa su un credo politico, ecco, tutte le console credo siano neutrali. Però è interessante vedere come anche nei dibattiti un po' politici venga fuori un po' questa, stia iniziando a venire fuori un po' questa cultura del videogioco, però come cosa negativa, più che altro non positiva. E siccome corriamo, passiamo subito al prossimo argomento. E in realtà il prossimo argomento è una curiosità che volevo un po' consigliare non soltanto ai nerd, ai gamers, ma un po' a tutti quanti, un po' a tutti coloro che ascoltano in questo momento. E si tratta di una serie. In questo caso una serie non televisiva, ma una serie online. Ne volevo parlare in realtà molto tempo fa, poi mi sono scordato e ho cacciato di nuovo fuori questo argomento qualche giorno fa. E diciamo, mi rimprovero il fatto di non averlo fatto prima, però ecco, lo dico adesso. Si tratta, questa serie televisiva ha il nome di Pureonage. Si tratta di una serie televisiva che praticamente ha come personaggi principali, come attore principale, un nerd, praticamente. Un nerd è l'altro attore invece, suo fratello, che non è un nerd ma lo riprende con la telecamera. E praticamente si vede, diciamo, gli episodi sono ambientati nella vita di ogni giorno di questo nerd, che ovviamente fa finta di fare quello che in effetti fa vedere nel video, perché se poi andate a vedere le varie interviste agli attori, loro non sono dei veri e propri nerd come si vede nella serie. Però è molto bello, oltre che interessante, perché offre proprio la prospettiva generale di quello che deve essere un nerd, del mondo nerd, del mondo praticamente videoludico. Un po' estremizzato sicuramente, però è sicuramente divertente. In realtà, se siete un po' gamers online, se un po' girate nei forum, vi sarà capitato di leggere o sentire una parola tipo ounare, pounato, cose così. E sappiate che queste parole, che ormai sono sicuramente ricorrenti nel gioco online e non solo, sono state coniate praticamente da Pureonage, da questa serie TV. E la cosa che, no, TV no, serie su internet, a parte che dopo posterò anche il link al sito, perché in effetti non è scritto Pure Ownage con la O, ma è scritto Pure Pwnage, cioè con la P al posto della O, quindi è un po' strano, sarebbe www.purepwnage.com. Comunque vabbè, dopo lascio il link. E dunque, cosa stavo dicendo? Non mi ricordo. Sì, ecco, praticamente è stata proprio questa serie intrapresa da questi due ragazzi a coniare varie parole utilizzate adesso nel web e nel gioco online. Io vi consiglio vivamente di andarci, perché comunque non sono. Cioè, è proprio grazie a questa serie che io sono diventato quello, cioè, che io mi autodefinisco un nerd, perché in effetti non è soltanto una serie stupida messa così, che insegna soltanto come si nerda di solito, ma in effetti nasconde anche dei messaggi profondi. Lo so che è difficile che un nerd possa fornire dei messaggi profondi, però. E a volte diciamo che la serie si distacca un po' dalla dalla vita nerd del protagonista principale, affronta un po' delle tematiche di tutti i giorni. Che cos'ha più Ronage in più di qualunque altra serie televisiva, no, ancora non televisiva, ma prossimamente televisiva, perché verrà trasmesso in TV, ma soltanto in Canada. Cosa di più Ronage? Più Ronage è diciamo è fatto molto meglio, lasciando perdere magari il primissimo episodio, andando sempre più avanti con gli episodi ci rendiamo conto che in effetti proprio la produzione non si basa soltanto, non gravita soltanto attorno ai due ragazzi, ma pian piano diventa una vera e propria produzione, diventata una casa pseudo cinematografica. E dunque i video vengono fatti, cioè gli episodi vengono fatti mano a mano sempre meglio, cioè diventano sempre più belli, non sono mai banali, sono molto interessanti. Cioè, se volete essere dei veri nerd, dovete andare a guardare almeno qualche episodio di più Ronage. E il fatto è questo: più o meno un anno fa, uno degli attori principali, non uno dei primi due, ma uno degli attori principali subentrato da poco tempo, purtroppo è morto. A causa del decesso di questo attore, la serie si è praticamente bloccata, mi pare, al 17° episodio. E essendosi bloccato al 17° episodio, diciamo, è stato un pochino problematico per i ragazzi continuare. Però, cioè, dopo un anno di stop hanno riniziato a lavorare di nuovo. E soltanto che adesso ripartiranno a marzo con una trasmissione televisiva, che diciamo riprenderà sempre un po' il filone lasciato dal 17° episodio. E se non sbaglio, cioè spero, così almeno dicono, loro posteranno i nuovi episodi anche su internet, come hanno sempre fatto. Quindi, cioè, quale occasione migliore per iniziare adesso ad andare a guardare Ronage, ad appassionarsi, perché è davvero, davvero fatto bene, davvero bellissimo. Dunque, mi sono dilungato tantissimo, io che sono pure di fretta, quindi mando subito la seconda canzone e ci vediamo dopo, dove sarò proprio ancora più breve. Questi sono i Plugs e questa è Rock and Roll Zombie. Les yeux à la carte faisant con Rock and Roll Zombie, sempre anche da Jamendo. E, per quanto riguarda il Giappone, io ho sempre tre migliaia di cose da dire, vorrei dirle, soltanto che proprio adesso sarò vergognosamente corto per quanto riguarda le notizie del Giappone. Volevo parlare di qualcosa di diverso rispetto a quello che ho detto le scorse puntate. E mi era capitata sotto gli occhi una notizia per quanto riguarda il Partito Democratico Giapponese, e mi sono ricordato di una cosa che in effetti avrei voluto dire anche questa in una delle scorse puntate, ma la dico adesso. E mi sono incuriosito un po' leggendo la storia della Seconda Guerra Mondiale alla politica del Giappone. Perché in effetti è una politica abbastanza giovane, ma è un misto tra tantissime politiche dell'Europa. In effetti il Giappone è un po' un unicum per quanto riguarda la politica rispetto alle altre politiche di tutte le altre nazioni, no? Perché per ben 50 anni, se non più, è stata praticamente il Giappone è stato governato da un unico partito, che era il Partito Liberal Democratico. In effetti, se ci pensate, insomma, 50 anni sempre lo stesso partito al potere è un po' strano, perché credo che non sia mai successo da nessun'altra parte, se non magari in Cina. Però appunto è così. In realtà il Giappone è molto simile sia all'Inghilterra, anzi più che altro al Regno Unito, sia al Regno Unito che diciamo un po' a tutte le altre nazioni europee. Infatti, insomma, il Giappone è una monarchia costituzionale. C'è un imperatore, in realtà questo imperatore ha più o meno la stessa in funzione della regina d'Inghilterra. Non ha proprio tantissimo da fare, da dire, un po' come il presidente della Repubblica italiano, ecco, non ha proprio senso come istituzione. E magari cioè, ha un senso nazionale, ma non ha proprio quasi nessun potere a livello proprio legislativo. E, essendo una monarchia costituzionale, ovviamente ha un sistema parlamentare, è ovviamente una democrazia. E, in realtà il sistema dovrebbe essere multipartitico. Però, come ho detto prima, poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale sono venuti a crearsi praticamente così tanti partiti che alla fine si sono fusi all'interno di due partiti principalmente, che sono appunto il Partito Liberal Democratico, ovvero quello conservatrice, e il Partito Conservatore, anzi, diciamo che potremmo assimilare un po' alla destra nostra. Mentre proprio nel 2009, se non sbaglio, se non dico proprio una cavolo, no, ecco, 2007, il 29 luglio del 2007 ci sono state le elezioni in Giappone, e incredibilmente ha vinto il Partito Democratico giapponese, non il Partito Liberal Democratico, quello che c'è stato 50 anni, ma l'altro, quello che è stato eternamente all'opposizione, cioè il partito che potremmo assimilare un po' al nostro Partito Democratico, un Partito Democratico di centrosinistra. E dunque, diciamo, sicuramente meno conservatore del Partito Liberal Democratico, ma diciamo un po' più progressista. Grazie a questo Partito Democratico, comunque la situazione in Giappone non è particolarmente cambiata, non è cambiata proprio tantissimo. In realtà la politica in Giappone non è vista come la politica da noi. Da noi praticamente è una guerra ogni volta che si parla di politica in qualunque parte. In Giappone, in un bar, per dirvi, non si parla di politica, ecco, non si parla di queste cose. La politica viene affrontata praticamente soltanto nei dibattiti televisivi, viene affrontata in conferenze, cose così, ma mai, insomma, dai giapponesi stessi direttamente, se non proprio dagli uomini di business, ecco. E un altro fatto curiosissimo è che praticamente tutti, quasi tutti i premier del Giappone sono laureati in due università, che sono l'università di Tokyo e l'università di Keio e alcune università di Kyoto. Praticamente altri premier che sono laureati in altre università non ci sono mai stati, soltanto in queste tre università che, guarda caso, sono proprio le università più prestigiose del Giappone. E un'altra cosa da dire è che comunque il premier, questa meno seria delle altre, il premier in questo momento si chiama Yukio Hatoyama, sempre ovviamente del Partito Democratico, e andando a vedere tutte le facce del G8, compresa appunto la faccia di Yukio Hatoyama, in effetti lui è quello con la faccia più simpatica, perché sorride sempre, oltre, cioè, sì, diciamo, sorridono un po' tutti quanti del G8, però lui è quello che ci crede di più, cioè il sorriso ispira fiducia. Quindi andatelo a cercare qualche foto di Yukio Hatoyama, perché è davvero simpatico, ecco, viene voglia di votarlo anche se non si è giapponese, quindi è molto simpatico. Poi ovviamente non so che ha fatto fino adesso in Giappone, non ho trovato niente in realtà delle proposte del Partito Democratico Giapponese, quindi non saprei dire. Appunto, io avrei detto che sarei stato molto molto breve, e infatti lo sono, perché del Giappone dovevo dire soltanto questo, anzi avrei dovuto dire ovviamente migliaia e migliaia di cose, ce ne sono cose da dire, ma ve le risparmio, anzi me le risparmio, perché come ho detto prima non ho più di un'ora di registrazione, quindi devo correre tantissimo. Ma in sostituzione, parodia numero 4, sì, se non sbaglio, sì, che è la numero 4, dai, sì, parodia numero 4, questa volta si parla di Street Fighter. Street Fighter ovviamente lo dovete conoscere tutti quanti, altrimenti se non conoscete Street Fighter, se non avete mai sentito parlare di Street Fighter, prima fate 5 minuti di vergogna e poi andate a cercarlo su Google, perché Street Fighter è il padre di picchiaduro. Ma lasciamo che sia la bellissima e mai fastidiosa, come no, voce metallica a narrarci un po' di Street Fighter. Parodia numero 4. Street Fighter. Ken e Ryuzo erano due buonissimi amici che passavano le loro giornate a mandarsi all'ospedale a vicenda, finché un giorno, senza motivo, decisero di voler bastonare più gente in giro per il mondo. Insieme svilupparono delle tecniche proibite, che potevano essere eseguite solo durante un'espulsione di gas dallo sfintere inferiore e che conseguentemente atterravano i nemici in un sol colpo. Proprio perciò queste tecniche erano chiamate Petoken e Pupuken. Ken e Ryuzo vagarono per il mondo a rompere la testa a varie persone indifese, finché non trovarono altri combattenti con problemi gastrici o peggio. Visitarono il Brasile, la Cina, l'India, la Spagna, la Giamaica, il Messico, Marte, Giove, Venere, Shambhala e anche Atlantide. Tra i vari combattenti che incontrarono, alcuni sembravano sotto l'effetto di qualche droga. Altrimenti non si spiegherebbe il colorito di Blanca, che sembra un misto tra Sarah Palin e un gorilla, o il simpatico Dalsim, che ha invece la terrificante facoltà di sparare peti infuocati dalla bocca. L'unica gnocca del gioco è Chun-Li, che per qualche motivo oscuro non si fila nessuno. I suoi calci sono potenti, soprattutto perché distrae i suoi avversari alzando le gambe e mostrando le sue mutandine killer. In realtà c'è un'altra sventola nel gioco, che erroneamente viene scambiata per un maschio. È la signorina Honda, che è molto generosa di petto e non porta reggiseno. Il premio per i capelli migliori va invece a Gail, ufficiale dell'esercito dello Stato Unito, e omosessuale, mentre il premio per il pelo più bello nella storia dei videogiochi va a Zangief l'uomo orso. Ci sono poi quattro boss, che si mostrano alla fine, perché fino a quel momento stavano probabilmente giocando a Dungeons & Dragons. Il primo è Sagat, che ha l'occhio sinistro bendato per far vedere quanto è figo. Il problema è che l'occhio non funzionante è quello destro. Gli altri tre sarebbero Vega, Balrog e Bison, ma questi tre simpaticoni hanno l'abitudine di scambiarsi i nomi tra le varie versioni e far incazzare i fan. Comunque Vega porta una maschera senza buchi né per vedere né per respirare e usa tre lame per tirare pugni alla cazzo di cane. E incredibilmente a volte vince. Balrog e Bison sono uno il padre dell'altro. Per quanto geneticamente sia impossibile, non ci sarebbe nessun'altra spiegazione del perché abbiano entrambi la stessa faccia di terga. Dopo tutti questi anni, ancora continuano a picchiarsi tra loro e a divertirsi facendolo, nonostante non sia mai invecchiato nessuno. In ogni caso, Street Fighter è uno dei picchiaduro più famosi di sempre, tanto che l'ultimo capitolo della saga è molto venduto. L'unica pecca è che il boss finale puzza. E il boss finale puzza, in realtà è questo, perché è troppo potente, insomma, hanno fatto troppo male. E lasciando perdere un attimo Street Fighter, perché potremmo anche di Street Fighter parlarne per tantissimo tempo. E proprio per fare il ruffiano fino in fondo, mando la terza canzone di oggi. E una cosa fondamentale, vi prego di lasciarmi dei commenti su nerdpodcast.blogspot.com, ma non di apprezzamento, ma di cazziatemi, praticamente, ecco, cazziatemi, per favore cazziatemi, perché praticamente non sto dando nessun senso a questa puntata, visto che sto andando troppo veloce e che di solito la terza canzone sarebbe arrivata dopo un bel po' di tempo, la parodia un pochino prima, insomma cazziatemi perché mi fate un favore. Dunque, dopo questa ruffianata passiamo praticamente alla terza canzone. Questi sono un po' più psichedelici dei primi due, però sono molto bravi, sempre a Giavendo.com. Sono Ilona con Chevaliers. Dov'è? Eccola qui. Ecco, Chevaliers. Souvenir, l'instant de notre mort, tant prossimo argomento è un argomento che tocca un po' tutti i podcasters, perché è un argomento un pochino sad, un pochino triste, perché in effetti è una notizia che non mi sarei mai aspettato. Comunque tutto è partito qualche settimana fa. Su Twitter, l'ho saputo io su Twitter, si è sparsa un po' la voce di Giamendo, Giamendo.com, dove praticamente prende la maggior parte della musica, dove ci sono tutti gli artisti Podsafe. Sicuramente, non credo di esagerare, comunque il sito di musica Podsafe forse... No, forse non credo, non so se è il più famoso, però è quello che frequento io, quello che frequento la maggior parte dei podcasters... E comunque Giamendo.com è in chiusura, cioè in fallimento. E che cosa è successo? Giamendo, in poche parole, ecco. Giamendo è stato capitalizzato con 1.500.000 euro all'inizio, nella sua apertura. Soltanto che... diciamo che i proprietari di Giamendo non sono riusciti ad arrivare a questa somma di denaro, ma questo 1.500.000. E quindi praticamente adesso sono in chiusura e le possibilità sono due, le conseguenze sono due, anzi sono tre in realtà. Anzi no, sono due. La prima è che Giamendo fallisca. Cioè quindi tutti gli artisti Podsafe perdano il loro posto su Giamendo e la loro piattaforma di musica libera, e quindi mai più Giamendo, addio, non ci vediamo più. E il che mi colpirebbe a me personalmente davvero, cioè mi darebbe un colpo basso, perché Giamendo a me piace tanto anche come sito, non soltanto per il fatto che è una piattaforma di musica libera, però proprio il sito di Giamendo, il fatto che comunque in tutti questi mesi io ho parlato con vari artisti, ho fatto conoscenza con altre persone, ho ascoltato tantissima nuova musica, mi sono ricreduto sulla musica Podsafe proprio completamente. E vedere sparire Giamendo significa vedere sparire anche uno dei siti che praticamente visite ogni giorno. E la cosa mi è già capitata in passato rispetto magari ad altri siti e mi dà molto molto fastidio. Quindi l'altra opzione sarebbe comprare Giamendo. Anzi, Giamendo è in vendita. Se nessuno lo compra, ovviamente si verifica il punto 1, cioè l'annullazione di Giamendo. E cosa sta succedendo per il web, soprattutto tra i podcaster? È successo un casino davvero, perché sono state create delle petizioni. La prima che mi viene in mente, che ho anche firmato, è www.savegiamendo.wordpress.com, cioè un blog su WordPress fatto apposta per salvare Giamendo per questa petizione. Ma in realtà una petizione non serve proprio a tantissimo, perché insomma non è una protesta contro la chiusura di Giamendo, cioè non è una cosa che i proprietari di Giamendo vogliono fare, ma è una conseguenza del business, dell'economia, insomma accade. E altrimenti un altro, oltre a sperare ad un eventuale acquisto di Giamendo da parte di qualcuno, alcuni si sono mobilitati per creare proprio dei gruppi e aiutare Giamendo a comprare, cioè a essere comprata praticamente dagli utenti, il che non dico mi pare impossibile, però è molto difficile. In realtà si potrebbe fare proprio benissimo, anzi credo che i risultati conseguiti fino ad ora siano buoni, siano ottimi, più dello sperato. Però insomma arrivare a 1.500.000 tra utenti è un po' difficile. In realtà io credo questo. Io credo che Giamendo non verrà chiuso, non chiuderà, perché da quello che ho visto ci sono troppe persone, compresi gli artisti, che comunque hanno bisogno, tra virgolette, di questo sito. Cioè è diventato ormai uno dei punti di riferimento per quanto riguarda la musica Podsafe. È diventato ormai un po' un Facebook musicale, perché come ho detto prima, dalla possibilità di poter conoscere proprio, proprio direttamente gli artisti. Io ho conosciuto vari artisti, ho parlato con loro proprio grazie a Giamendo, e la cosa mi è piaciuta tantissimo. Insomma, Giamendo ha proprio rivoluzionato la mia idea di musica pop safe, che io reputo ma molte volte migliore riguardo alla musica che magari si vede aprendo iTunes, oppure su MTV, che è proprio lo schifo dello schifo. E la cosa mi darebbe davvero tantissimo fastidio. In realtà, come ho detto, non c'è moltissimo da fare, bisogna soltanto aspettare, vediamo un po' cosa accade. E insomma, se si può fare qualcosa, anche segnare una petizione, per quanto utile o no sia, lo facciamo, facciamolo. Quindi se proprio non siete tra quegli utenti che stanno partecipando alla, diciamo, all'acquisto di Giamendo, e almeno andate a segnare la petizione online, che è su www.savegiamendo.wordpress.com. Ebbene, allora, detto questo, poi ho un'altra piccola curiosità per quanto riguarda proprio il mondo, in realtà il mondo di internet. Si tratta di un sito che ho scoperto in realtà un bel po' di tempo fa, e che non mi ha mai convinto del tutto. In realtà è molto strano come sito. Per quale motivo? Prima cosa di tutto, qual è il sito? Il sito in questione è ubid.com. Ubid.com è un sito abbastanza strano, e comunque, diciamo, prendendo in considerazione il fatto, per assurdo, che sia tutto vero, è anche abbastanza rivoluzionario. Che cosa fa Ubid? In realtà è un po' l'antitesi di eBay. eBay, insomma, è la piattaforma principale di acquisto online, il sito principale di acquisto online. Si fa un'offerta, se l'offerta è quella più alta, se la nostra offerta è quella più alta, noi praticamente ci aggiudichiamo l'oggetto e ci viene spedito. Ubid è il contrario: chi fa l'offerta minore vince. Come funziona tutto questo? Bisogna dire questo, bisogna, oltre al fatto di registrarsi sul sito, bisogna, cioè si hanno queste tre possibilità iniziali per partecipare a un'asta. Perché per partecipare a un'asta, non per dare un'offerta, ma per partecipare a un'asta, bisogna sborsare, mi pare, un euro. Però appena registrati per la prima volta, viene data, mi pare, la possibilità di due o tre, diciamo, di due o tre possibilità, appunto, di partecipare ad un'asta senza pagare un euro. Come funziona dopo che si è entrati in un'asta? Bisogna fare l'offerta minore. Il fatto è questo: se io come offerta minore metto, per esempio, un centesimo, che ne so, per un orologio, che è la prima cosa che sto guardando nella pagina di Ubid, se praticamente metto un centesimo e uno dopo di me mette due centesimi, colui che vince è in realtà quello che mette due centesimi. Cioè, quindi, che cosa accade? Praticamente accade questo: non vince proprio colui che mette l'offerta più bassa, se no a questo punto io avrei messo un centesimo e mi sarei aggiudicato tutto quanto. Vince colui che è superiore all'offerta più bassa, e praticamente si va avanti così. Perché se io metto un centesimo e lui mette un centesimo ed egli va a mettere tre centesimi, vince egli, vince appunto lui. Ed è un po' strano, perché in effetti se qualcuno partecipa ad un'asta che nessuno guarda, o che non lo so, è facile vincere, o qualcuno ha un, diciamo, ha la fortuna di vincere quella cosa, il sito andrebbe in perdita, anche perché non si capisce per quale motivo io dovrei andare a mettere, che ne so, la mia televisione su Ubid con il rischio di praticamente venderla a, che ne so, 20 euro e non andarla a mettere ad eBay dove metto io il prezzo e praticamente posso anche arrivare a un prezzo aumentato e acquistarla, e venderla. Ed è un po' strano, perché in effetti nessuno andrebbe a mettere su Ubid cose che magari vedo adesso nella pagina principale. Io che vedo cose pazzesche, vedo un Nexus Electronics che è un Full HD, una televisione che in questo momento è a $172. E vedo vari gioielli che sono massimo $800. Insomma, vedo varie cose che in realtà non valgono quello che sono. È abbastanza pazzesco, perché ogni giorno viene rinnovata questa cosa qua. Viene rinnovata la pagina principale con offerte pazzesche. In realtà sembra che tutto sia un'occasione da non perdere, però c'è sicuramente qualcosa sotto. A me personalmente pare strano, perché come ho detto prima, dovessi mai vendere qualcosa, non andrei sicuramente su Ubid. Però insomma, su internet è decretato un po' come una truffa. Stessa cosa anche per bitplaza.it, cioè le regole sono quelle. Qual è il fatto? È che comunque per quanto si debba pagare poco, cioè essendo che è un sito di offerta a ribasso, cioè come ho detto prima, appunto, l'offerta minore, diciamo coloro che hanno ideato il sito guadagnano poco, perché in effetti l'offerta minore parte sempre da un centesimo fino ad arrivare massimo a 10 euro, un poco più. Però essendo che l'idea alletta praticamente coloro più, cioè alletta di più vincere una maglietta a 2 euro su Ubid che pagarla proprio di brutto, così tra virgolette, a 10 euro, 15 euro su eBay. Cioè fa meno senso cercare di vincerla a 2 euro avendo la possibilità anche di perderla, però rispetto praticamente a pagarla completamente già facendo un'offerta su eBay. È più un gioco psicologico, è una questione psicologica che utilizzano i creatori, che in realtà fanno apparire tutto come totalmente vero, cioè niente sembra una truffa. Se in realtà andiamo a cercare delle notizie di Ubid, di Bitplaza su Google, io almeno ho trovato soltanto dei commenti negativi che parlano di truffa completa. Insomma, io non ho mai creduto a queste cose fin troppo rivoluzionarie. Cioè è bello avere qualcosa di rivoluzionario, ma non fin troppo rivoluzionario fino a questo punto, perché in effetti Ubid, non lo so, mi sembra un po' strano. Se proprio volete tentare, avete comunque quei 3 tentativi all'inizio e potete anche fare un'offerta al ribasso e vedere un po' voi. Ubid.com. E io, siccome ho sforato anche in questo momento l'ora, mi sono fatto prendere troppo da Ubid e dalla questione di Giamendo, che comunque mi sta a cuore, quindi ricordatevi savegiamento.wordpress.com. E detto questo, io passerei all'ultima canzone, che in realtà è una canzone abbastanza lenta. Non metto quasi mai delle canzoni lente, diciamo metto sempre qualcosa di alternative, di rock, di metal. Questa è un po' lenta, però ci sta, insomma, per chiudere mi piaceva. E dunque, dopo la canzone praticamente le conclusioni, però vi ricordo una cosa, vi ricordo di mandare ovviamente delle dei commenti. Se vi va, scrivere qualcosa su nerdpodcast.blogspot.com. Ovviamente abbonarvi al feed e praticamente è anche nella pagina nell'home page del blog. L'email è sempre nerdcast@gmail.com. Su Twitter sono nerdfats, www.twitter.com/nerdfats. La cosa bella è che quando finirà la canzone dirò praticamente le stesse cose che ho detto adesso. Perché non lo so, però voi intanto godetevi questa canzone. Sono Yoshan Sea da con Breathing. Scusate, volevo dire da Jamendo. Yoshan Sea con Breathing da Jamendo. E ricordatevi, savejamendo.wordpress.com. E cerchiamo di fare qualcosa, insomma, ok? Ok, Breathing. Time's running by. Going dry. I still miss you when I'm not on my own. Silhouette is clear. The echoes disappear. The shadows still remain in my belongings. And your soul has left me here to die. My heart is running out of time. I'm still here on my own. I won't wait by the phone. Breathe in, breathe in. I will wait by the phone. On my own. On my own. Says goodbye. Dreams won't dream on their own. Shadows disappear. Love turns to fear. Of compromises, ties and bones. And your soul has left me here to die. And my heart is running out of time. I'm still here on my own. I won't wait by the phone. Breathe in, breathe in. I will wait by the phone. On my own. On my own. Spero vi abbiano calmato, perché insomma è davvero una bella canzone, li trovate anche loro su Jamendo. Ebbene, noi ci lasciamo qui finalmente, io devo completamente scappare, volevo farla un pochino più breve questa puntata, in realtà è uscita ovviamente una puntata normale, perché io non sono bravo a fare le cose brevi, e quindi... Noi ci salutiamo, ricordatevi di fare, di dare il vostro contributo per Giamendo, almeno l'unica cosa che potete fare, cioè quello che mi sono sentito di fare io, è ovviamente parlarne nel mio podcast. Voi, non lo so, siete iscritti in un forum, avete anche voi un podcast, avete un blog, dedicate un topic, un post, una parte anche del vostro podcast, per parlarne un po', perché in effetti è importante. Bene, detto questo, ovviamente, come ho detto prima, ripeto subito i contatti: l'email nerdcast@gmail.com, dove mandare gli insulti. Vi ricordo che dovete cazziarmi, farmi dei bei cazziatoni su nerdpodcast.blogspot.com. E su Twitter sono Nerdfats, Facebook non lo uso, ci sono ma non lo uso, quindi sono principalmente questi tre che io guardo praticamente sempre. E allora ci siamo lasciati un po' con questa musica rilassante, e così ci lasciamo, ci vediamo. Si spera fra 2 settimane, ma sicuramente non sarà fra 2 settimane, perché avrò impegno, mi scorderò. No, scordarmi no, ci ho sempre in mente di avere un podcast, per fortuna. Però, non ho, quando ho tempo cerco di farcela. Vediamo se proprio nella prossima settimana posso recuperare la settimana andata. Quindi vediamo. L'appuntamento rimane a fra 1 settimana. Che tradotto praticamente in nerdcastiano significa ci vediamo il prossimo mese. Quindi statemi bene e buon 2010 a tutti. Ciao ciao.